G. Ascolta e indica se senti S o doppia S. 1. È contro il mio interesse. 2. Quel cane ha il muso grigio. 3. Non è possibile. 4. Mi dispiace. 5. È il più bello in assoluto. 6. Ho un asso nella manica. 7. Non osare parlarmi in quel modo. 8. Il tuo è un discorso inutile.